Vai mollare, no? Sì, no, ma non ci sono. Siamo in arrivo a Rapallo. Quindi 9:30 che è ancora. Mia figlia è stata 8 mesi in Germania. In questo momento diciamo, prendo la chiave. In questo momento potrei commentare anch'io con me delle uscite.